5B. Ascolta e trasforma. Perché non beve nulla alla festa? Perché non bevero nulla alla festa? Cosa beve la tua amica? Cosa bevvero le tue amiche? Lui beve troppo e stette male. Loro bevvero troppo e stettero male. Non beve alcolici quella sera? Non bevvero alcolici quella sera? Bevvi un succo freschissimo. Bevemmo un succo freschissimo. Bevvi un caffè prima di uscire. Bevemmo un caffè prima di uscire. Bevvi un vino buonissimo. Bevemmo un vino buonissimo. Non bevvi niente, perché stavo male. Non bevemmo niente, perché stavamo male.